prima edizione. L'informazione del mattino. Ed eccoci, qualche notizia delle ultime ore, innanzitutto quella che è appena arrivata da Palermo. La Guardia di Finanza ha scoperto una truffa allo Stato di circa 500.000 euro messa a punto dal titolare di agenzie di scommesse cittadine. In 3 anni l'agenzia ha raccolto scommesse mettendo oltre 42.000 ticket con importi alterati. La notizia è arrivata poco fa. E poi una notizia invece della notte, notizia diffusa da Wall Street Journal, che riguarda la vicenda di JP Morgan. Come sapete, come vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, JP Morgan ha scoperto o ha reso noto al pubblico un buco da 2 miliardi di dollari generato da operazioni sbagliate, da errori su operazioni finanziarie. Ebbene, stanno cadendo le prime teste. 3 manager lasceranno già nei prossimi giorni, entro la settimana a lasciare. Probabilmente ci sarà anche Ina Drew, che dal 2005 è responsabile del risk management della divisione, che ha registrato appunto i 2 miliardi di dollari di perdite. Queste le notizie in arrivo appunto da Wall Street. Noi ci fermiamo per la viabilità, ci ritroviamo subito dopo per dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Prima edizione. Sono 6, 15 minuti e 50 secondi. Vediamo di dare un'occhiata a quello che troviamo oggi sulle prime pagine dei giornali. Prime pagine dominate, almeno per quanto riguarda il titolo di apertura, da quel che abbiamo trattato già nel GR, che poi toccheremo più avanti anche con un'analisi, come si dice, da Francoforte, e che sono le elezioni in Nordrhein-Westfalia, in Germania. Lo ricordiamo, riguarda, può sembrare un'elezione locale, ma in realtà nel Nordrhein-Westfalia c'è circa un quarto degli elettori tedeschi, quindi insomma non poco. Tra il titolo del Corriere della Sera, che già punta sull'analisi, Merkel ora è più debole, la Stampa sulla cronaca, Germania tracollo Merkel, La Repubblica, crolla la Merkel, bocciata l'austerity, anche qua si vira sull'analisi, anche Il Messaggero parla di crollo della Merkel, Il Giornale, figura di Merkel, batosta per la maestrina, questa la scelta di titolo del giornale. Tra gli altri titoli, naturalmente qualcosa dedicato alle parole che abbiamo sentito poco fa del Presidente del Consiglio, Mario Monti, che avverte forti tensioni sociali, e naturalmente anche le vicende che riguardano il terrorismo e le indagini sull'attentato al dirigente dell'Ansaldo ad Inolfi. Anche di questo andremo a parlare più avanti. Iniziamo a dare un'occhiata un po' più approfondita, per quanto pur sempre alle prime pagine. Poi vi ricordo che naturalmente più avanti ci saranno tutti i dovuti approfondimenti con il nostro Alessandro Milan, dopo il GR delle 7, dopo il GR Sport, quindi intorno alle 7:20. Ebbene, iniziamo proprio dal Corriere della Sera. Come si diceva, il titolo è Merkel ora è più debole, all'Eurogruppo il caso Grecia che rischia nuove elezioni, questo per quanto riguarda appunto la Germania. Ma Berlino resterà custode del rigore, questa è l'analisi di Franco Venturini appunto per quanto riguarda il voto di ieri. A centropagina il titolo su Monti, la preoccupazione di Monti per le forti tensioni sociali, incontro con il Papa che invita l'Italia a reagire allo scoraggiamento. Da segnalare che il Corriere della Sera riporta anche indiscrezioni o indicazioni, per così dire, su quello che è il piano dell'esecutivo per quanto riguarda Equitalia, ossia come appunto far rallentare commentare, visto che si parla di tensioni sociali, questo clima intorno all'azienda che si occupa della riscossione per conto dello Stato e non solo per conto dello Stato. Occhi puntati sulla visita di Mario Monti all'Agenzia delle Entrate giovedì prossimo, scrive Enrico Maro. La parola d'ordine è allentare la tensione intorno ad Equitalia, ma per farlo c'è da augurarsi che il Premier possa varare le facilitazioni dei pagamenti arretrati alle imprese fornitrici della pubblica amministrazione e lo sblocco della possibilità di compensare tra loro cartelle esattoriali. Dunque, vedremo che cosa succederà da questo lato. C'è un'intervista per quanto riguarda i ballottaggi, sono le parole di Maurizio Lupi del PDL, un personaggio importante, come forse già saprete, o forse non lo sapete, però al ballottaggio di Parma il PDL ha deciso di sostenere il candidato del Movimento 5 Stelle. Questa la decisione in cui il ballottaggio a Parma che vedrà opposto il candidato del Movimento 5 Stelle e il candidato del Partito Democratico, il PDL sostirrà il candidato del Movimento 5 Stelle. Bene, Lupi dice è sbagliato sostenere il grillino a Parma. Vicenda di cronaca di taglio basso sul Corriere della Sera, la vicenda di una donna inglese, le 10 coltellate, il perito che dice suicidio, è un mistero in Campania, è interessante leggere la storia, 10 coltellate alla gola e quelle ultime parole, un uomo, la morte misteriosa della cameriera inglese ad Avellino diventa un giallo, ma ci segnala Andrea Pasqualetto, sempre dalla prima del Corriere della Sera, ma gli inquirenti di Ariano Irpino, che si sono occupati del fatto accaduto il 1 marzo scorso a Carpignano di Grotta Minarda in provincia di Avellino, propendono per il suicidio. Questa è la vicenda raccontata in prima dal Corriere della Sera. Veniamo alla Stampa, si segnalava, apre naturalmente su Merkel. C'è un commento a firma di Gian Enrico Rusconi, cancelliera sotto tiro, e un commento invece dell'economista Franco Bruni, crescere nel rigore. Da segnalare sotto al titolo che riguarda Monti e che riguarda le forti tensioni sociali, questione della quale abbiamo parlato poco fa, c'è collegato un pezzo che cita le parole di Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat, ieri al Salone del Libro, che dice l'austerità non basta, bisogna far ripartire l'economia. Da segnalare che il quotidiano torinese, da buon quotidiano torinese, La Stampa, fa un titolo forte in alto in prima pagina su Del Piero, l'addio del capitano, lacrime d'amore nel giorno di festa, Del Piero lascio con un filo di tristezza. La Juve batte l'Atalanta, per Alex ultimo gol bianconero in Serie A. Questo per quanto riguarda La Stampa. La Repubblica, come si diceva, c'ha il titolo che è dedicato al fatto che crolla la Merkel ed è bocciata l'austerity, ma come abbiamo visto le interpretazioni sono diverse, insomma basta vedere il titolo del commento sul Corriere della Sera che era ma Berlino resterà custode del rigore ed era firma di Franco Venturini. Comunque, bocciata l'austerity è la scelta di analisi della Repubblica. Il retroscena è a firma di Francesco Bei ed è un retroscena su niente po' di meno che Mario Monti. Qualcosa sta cambiando, la svolta è a portata di mano. La nota di ottimismo con cui Monti colora la sua giornata, dopo che aveva descritto un'Italia preda di forti tensioni sociali, è la vera novità di giornata, scrive Francesco Bei. Come si diceva, titolo su Monti, a troppe tensioni sociali servono unità e coraggio. Da segnalare in merito alle questioni che riguardano il terrorismo, ecco il piano del Viminale, ed è polemica su Sergio Segio, l'ex terrorista, in TV. Segnala anche Repubblica che erano in 6 nel comando che ha colpito Adinolfi a Genova, e gli anarchici sul web che dicono attacchiamo. Anche qua centropagina una bella foto di Del Piero e un bel racconto di questa giornata di ieri, e un pezzo a firma di Francesco Merlo dal titolo Il campione sobrio, e il racconto appunto è di Maurizio Crosetti. Da segnalare a proposito, visto che tanto si parla di tasse, quella tassa pagata due volte la vittoria delle famiglie, pezzo a firma di Roberto Petrini, si parla di 7 milioni di famiglie che aspettano da 4 anni la restituzione dell'IVA che hanno ingiustamente pagato sulla TIA, la tariffa di igiene ambientale, negli ultimi 12 anni. Il Sole 24 Ore, come sapete, è un numero, quello del lunedì, un numero freddo per così dire, un settimanale, però ci sono parecchie cose interessanti, a partire da tutte le risposte ai quesiti sull'IMU. Come sapete, l'IMU è tassa non solamente che non piace a molti, come tutte le tasse naturalmente, ma anche una tassa piuttosto complicata, a quanto pare. Bene, appunto, oggi in regalo tutte le risposte alle domande arrivate via internet, e probabilmente ci sarà anche qualcosa che vi siete chiesti voi e che non avete ancora chiesto al Sole 24 Ore, bene, la trovate là. A centropagina, o meglio il titolo di prima pagina, di apertura e appalti, una stretta sulle regole, l'autority, la riorganizzazione degli acquisti di beni può produrre benefici addirittura per 3 miliardi, qua si parla della famosa spending review. Se si evitassero i ritardi per i pagamenti della pubblica amministrazione verso le imprese, quanto ci si guadagnerebbe? Bene, 5 miliardi di prodotto interno lordo, secondo il Sole 24 Ore, secondo i calcoli del Sole 24 Ore. Il titolo è proprio questo: pagamenti della pubblica amministrazione rispetto dei tempi vale 5 miliardi di PIL. Quindi due titoli sulle cose da fare: i pagamenti alle aziende e i risparmi e i tagli, e un titolo a centropagina su quello che ci tocca: una pioggia di aumenti nascosti dai parcheggi ai mezzi pubblici, gli enti locali cercano di far fronte a tagli e patto di stabilità nelle province, prelievo ai livelli massimi su RCA, su assicurazioni auto e addizionale rifiuti. Questo il Sole 24 Ore. Il Messaggero, che ha naturalmente l'apertura sulla Germania, e un titolo dedicato al calcio che non parla di Juve, ma naturalmente parla delle due romane, la Lazio che rimpianto e la Roma che si prepara a quanto pare ad accogliere Montella come allenatore, o almeno questo è l'obiettivo. Oltre a un titolo anche naturalmente su Monti, ci sono due vicende a cui dà particolare evidenza. La polemica sulla marcia per la vita a Roma, la cosiddetta marcia per la vita, è la marcia contro la legge 194, contro la legge sull'aborto. E di taglio basso invece ha degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda l'attentato da Dinolfi a Genova, perché si indaga su 40 nomi, riferisce il Messaggero, stranieri tra chi ha sparato a Genova. Quindi questa è una questione interessante, scritta da un ottimo cronista, Massimo Martinelli. Come si diceva, il giornale, l'apertura è figura di Merkel, questo il titolo scelto, diciamo piuttosto forte, questo il quadro. A centropagina anche una grande foto di Del Piero, l'ultimo gol di Del Piero è un addio da manuale. Merkel perde in casa invece il titolo dell'Unità, che però a centropagina sceglie di parlare di Catanzaro, l'ombra dei brogli sul voto, più schede che votanti, giri strani di tessere, la procura sequestra tutto. E anche qua naturalmente, con una valenza un filino più negativa e dedicata soprattutto al sindaco Alemanno, marcia contro la 194, polemica a Roma. Vi segnaliamo infine dal Secolo XIX un titolo che nuovamente riguarda l'attentato ad Adinolfi, attentato a Genova, la Digos allerta il rettore, università a rischio infiltrazioni, paura per alcuni professori. Prima edizione. Sono le 6:37 minuti e 16 secondi, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. È la mattina di Radio 24, oggi è il 14 di maggio, si apre una nuova settimana di Italia in controluce. crisi, precariato, suicidi, l'incubo di un cortometraggio nato grazie ad una raccolta fondi sui social network. Una raccolta alla quale hanno contribuito anche molti precari per testimoniare il loro impegno contro un dramma collettivo. Ci racconta questa storia Maria Luisa Pezzali. Buongiorno, sono... Dottor Moroni, la stavamo aspettando, prego, si accomodi. Scusi per l'attesa. È un test attitudinale. Deve compilarlo. Carlo Moroni è un padre di famiglia di mezza età, ha perso il lavoro ed è alla ricerca di un nuovo impiego per riconquistare la dignità perduta e la serenità familiare. Carlo! Carlo, reagisce! Circuito chiuso è un cortometraggio di denuncia che attraverso la storia di Carlo racconta la crisi, il precariato e la voglia di farla finita. Una storia simbolo, simile alle tante storie che si nascondono dietro i suicidi raccontati dalla cronaca di questi mesi. Mai così tanti, mai così drammaticamente testimoniati da lettere che parlano di solitudine, impotenza, disperazione. La tua disperazione è la nostra forza. Tu accetterai qualsiasi condizione, perché noi siamo il tuo salvagente, bucato, nel quale tu devi soffiare ogni secondo della tua vita. Carlo Moroni, questo posto è tuo. Questo è il nostro benefit aziendale. Lo potrai utilizzare il giorno in cui non avremo più bisogno di te. Circuito chiuso è nato grazie al crowdfunding, una raccolta di fondi in rete. Piccole donazioni da 5, 10, 20 euro di decine di persone che attraverso i social network hanno voluto testimoniare il loro impegno contro questo dramma sociale. Il regista Valentino Innocente. Il corto l'ho realizzato con quei 3.000 euro raccolti con il crowdfunding, mettendo i vari nomi delle persone che hanno contribuito nei titoli di coda con il loro contributo. All'inizio ero emozionato perché iniziavano ad arrivare somme da parte di precari, di persone che vedevano nel corto come un loro portavoce. Mi arrivavano delle mail di persone che mi raccontavano la loro storia dicendo: guarda, mio marito è stato appena stato licenziato da questa azienda, io non ti posso dare più di 20 euro. Però quelle 20 euro avevano un valore molto più importante di altre 20 euro che mi poteva dare una casa di produzione, perché il corto iniziava a diventare un corto umano, non so come spiegarlo. La forza mi è stata data dai nostri produttori, da questi precari che hanno creduto in questo lavoro. Volevamo soltanto che questo corto diventasse un cortometraggio di denuncia, una storia universale, nel senso che il protagonista potrebbe essere sia un imprenditore sia un impiegato dal nord al sud. Era Italia in controluce, la prima edizione di quest'oggi 14 maggio. Torniamo puntuali come sempre con nuove storie alle 13.30 su Radio 24. Le 6:41 minuti e 38 secondi. Dunque adesso parliamo di elezioni in Germania. Come sapete si è votato in Nordrhein-Westfalia, una delle regioni più popolose del paese, riguarda elezioni che hanno riguardato circa un quarto della popolazione. Allora, Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, prima di tutto una valutazione generale su questo voto. Non c'è dubbio che la sconfitta è stata pesante nel Nordrhein-Westfalia e il partito della signora Merkel ha avuto il peggior risultato dal dopoguerra a oggi, ed è uno stato importante perché, come dicevi, ci vive quasi un quarto della popolazione tedesca. Forse però le sue conseguenze non vanno sopravvalutate. Intanto manca ancora più di un anno alle elezioni politiche, poi comunque a livello nazionale la signora Merkel resta di gran lunga il politico più popolare. Inoltre la SPD e i socialdemocratici hanno avuto molti di questi successi locali, ma per il momento non sono riusciti a trasformarli in un consenso forte a livello nazionale. Quindi la signora Merkel resta in sella, aiutata in parte anche dal rafforzamento dei liberali, che sono il partner minore della sua coalizione, che sembravano destinati a sparire, invece hanno avuto una piccola ripresa nelle ultime due elezioni regionali. Allora, Alessandro, secondo te potrà cambiare qualcosa nelle politiche tedesche verso l'Europa, per esempio un ammorbidimento della linea del rigore? È vero che nel Nord Reno-Vestfalia si è votato anche su questo tema dell'austerità, perché il governo locale è molto indebitato e i socialdemocratici spingono per avere un rientro dal debito più morbido, mentre la signora Merkel ha fatto campagna nella regione proprio con il suo classico credo dell'austerità. È vero anche però che una delle ragioni per la popolarità della signora Merkel a livello nazionale è proprio questo suo aver sposato una linea di rigore estremo e non volere concedere altri fondi ai paesi indebitati del resto d'Europa. Quindi dovrà bilanciare nei prossimi mesi questo aspetto con il fatto che dal resto d'Europa, compresa la Francia e anche l'Italia, vengono pressioni perché si ammorbidisca un po' questa linea del rigore. Credo che qualche concessione la signora Merkel dovrà farla. Il compromesso più probabile è che al fiscal compact, cioè al patto fiscale per il rigore di bilancio, si affianchino una serie di misure atte a favorire una ripresa dell'economia che, come sappiamo, è in difficoltà un po' dappertutto, meno forse che in Germania. Grazie ad Alessandro Merli. Grazie Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Dunque noi adesso passiamo a parlare di terrorismo e di quello che è successo con l'attentato all'Ansaldo. Con la nostra Adriana Fracchia facciamo il punto, perché ci sono delle novità importanti dal lato delle indagini e non solo. Adriana, buongiorno. Buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Sarebbero infatti una quarantina i sospettati per il ferimento di Roberto Adinolfi, il manager di Ansaldo Energia, la prima delle aziende del gruppo che fa parte del settore civile di Finmeccanica. Tra questi 40 ci sarebbero anche alcuni esponenti dell'anarchismo straniero, forse greco. Questo per gli investigatori confermerebbe che anche per gli anarchici italiani si può parlare di terrorismo internazionale. All'attentato di Adinolfi avrebbero partecipato concretamente un comando formato da 6 persone. E intanto al Viminale si lavora per la prevenzione. Giovedì, dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, sarà diramato il nuovo piano per rafforzare le scorte. Gli obiettivi sensibili nel mirino degli anarchici del FAI sarebbero dai 400 ai 500. Tra questi, oltre alle numerose sedi di aziende controllate da Finmeccanica, anche banche, ministeri, commissariati, di Equitalia, Agenzia delle Entrate. Un carico insostenibile per il solo Ministero dell'Interno, il cui sistema di sorveglianza già ora impiega nei servizi di scorta 2.500 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, oltre a 4.000 uomini dell'esercito che già contribuisce all'operazione Strade Sicure. Per questo il Ministro dell'Interno Cancellieri ha ipotizzato un ulteriore ricorso alle forze armate, sul quale peraltro c'è già il via libera al capo dell'esercito Claudio Graziano, e dalle prime stime del Viminale si parla di altri 1.000 soldati. Prima edizione. 6:47 minuti e 35 secondi. Questa sera uno degli eventi televisivi dell'anno, la trasmissione di Fabio Fazio e Roberto Saviano. Il racconto della nostra inviata a Torino, Alessandra Tedesco. Fabio Fazio e Roberto Saviano hanno scelto il Salone del Libro di Torino per rappresentare il nuovo programma che andrà in onda da questa sera per 3 sere consecutive sulla 7 e che si intitola Quello che non ho.